Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qua in diretta in questo giorno della Befana, mercoledì 6 gennaio, sono le 8:13 primi e 10 secondi. Cari ascoltatori, in questa Befana, Oscar Giannino, è però l'ultimo giorno in cui sta solo, perché domani torna con noi Alessandro Milan. Torna a sta casa, spietta a te, come dicono a Napoli. Però insomma si è preso giusti giorni di ferie, quindi domani non mancherà di rispondere a qualche battutina. Comunque da domani Alessandro torna, e noi in questa Befana, che mi solleva naturalmente dall'incombenza di ricordarvi qual è il santo del giorno, io ne approfitto per dirvi però quali saranno gli ospiti e quali temi tocchiamo in questa mattinata della Befana. Innanzitutto, verso nella seconda parte della trasmissione, io voglio utilizzare proprio la ricorrenza della Befana per porre a voi tutti e a voce alta a noi tutti un interrogativo sul filo tra l'ironia e il paradosso, ma insomma anche la serietà, perché siccome su questa festa della Befana si è creato nel tempo il grande equivoco, insomma, la Befana, no? Dire a una donna se una Befana mai è stato un complimento, e quindi è sempre anche questo rientrato in una categorizzazione di genere. Ma non è che per caso, cari signori in ascolto, dobbiamo approfittare di questo giorno per fare un po' di autocoscienza, come si diceva un tempo negli anni 70, autocritica? Cioè, non è che da una parte noi crediamo che ci sia la parità ormai di genere in Italia, ma invece, come si vede dalla quantità di ore che incombe solo sulle spalle delle signore per la cura parentale e in famiglia, questa cavolo di benedetta parità noi non l'abbiamo realizzata per niente. Basta vedere quanto vengono retribuite nelle aziende, chi comanda nelle aziende, le pratiche di stalking che continuano a essere diffuse da tutte le parti del mondo del lavoro italiano. Insomma, faremo una conversazione, se volete chiamateci anche per dire: ma no, non rompere le scatole Giannino, c'è la piena parità, anzi comandano troppo le signore, diciamoci la verità. Io penso invece che bisogna farlo ogni tanto un po' di autoconsapevolezza. Secondo me un giorno come quello della Befana costituisce una buona occasione nelle famiglie italiane per guardarsi negli occhi e dire: ma cara, forse non ci siamo ancora. Io almeno questa necessità la avverto, perché come tutti ho figli, ho prole, si lavora entrambi in famiglia, e insomma spesso le tensioni arrivano proprio perché non ci sono regole chiare e i maschi puntano i piedi. Allora, nella seconda parte della trasmissione avremo un ospite con cui parleremo di questo, ma nella prima parte della trasmissione invece ve lo dico subito: ieri alla notizia che l'Italia anche si avvia forse a sospendere Schengen al confine con la Slovenia, ci siamo guardati negli occhi in redazione, abbiamo detto occupiamoci di questo, e chiediamo a un paio di ospiti che cosa davvero sta succedendo nel nord-est italiano. È necessario anche da parte nostra, come molti altri euromembri hanno fatto dalla scorsa estate in poi, cioè in buona sostanza da quando l'apertura unilaterale del cancelliere tedesco agli asilanti dalla Siria ha prima messo a dura prova e poi fatto saltare i filtri di tutti i paesi centroeuropei, perché si è in poche settimane ha determinato l'impossibilità di reggere alla grande ondata che a quel punto si redistribuiva e si riorientava attraverso l'asse centroeuropeo e balcanico. E abbiamo assistito nel corso dell'estate alla crisi di ogni credibilità dell'Unione Europea su questo, al fatto che Schengen saltava unilateralmente da frontiera a frontiera, tra quella austriaca e tedesca persino, oltre che appunto l'erezione dei muri in Ungheria, l'erezione di muri lungo il confine serbo, ieri la notizia era appunto la ripresa dei controlli per la prima volta dopo 50 anni alla frontiera tra Svezia e Danimarca, e quando l'abbiamo visto sui giornali di ieri anche per il confine italiano-sloveno ci siamo chiesti, ma interroghiamoci, nel nord-est italiano è successo qualcosa in questi mesi da giustificare il riparo più alto e a nostra volta il far venire meno il mattone comune di una Europa senza piena libertà e quindi con il ripristino dei controlli nella possibilità di superare i confini che avevamo aboliti interni all'Unione Europea. Ecco, quindi ci occuperemo di questo. Se dal nord-est ci volete chiamare e a vostro avviso c'è davvero un problema di eccesso di profughi immigrati che bucano le frontiere italiane senza controlli, per cui bisogna ripristinare i controlli, chiamateci pure. Noi parleremo tra poco con Paolo Rumiz, scrittore, giornalista che di area balcanica e oriente se ne occupa da decenni, e abbiamo il sindaco di Gonizia con noi tra poco. Lo chiederemo a loro cosa pensano, perché sul giornale di oggi, per segnalare alcuni degli spunti del giornale di oggi, troverete molti altri approfondimenti proprio sulla lite sui migranti dell'ennesimo vertice europeo che è in corso in questi giorni. Cito un titolo tra tutti, quello che trovate a pagina 2 di Repubblica: Bruxelles, incubo da effetto domino, la fine di Schengen è un rischio reale. Sottotitolo: il timore è che la Germania possa seguire l'esempio scandinavo, aperte virgolette, Roma e Atene non filtrano i profughi, le consuete accuse contro l'Italia. E oltretutto la notizia su cui pubblico un approfondimento anche il Corriere della Sera è che abbiamo perso anche l'unico rappresentante italiano nella squadra del presidente della Commissione Europea Juncker, perché si è dimesso, è passato altro incarico, quindi col risultato che non abbiamo neanche un collegamento ufficioso oramai tra Commissione Europea e Governo, e questo certo non aiuta, proprio perché siamo sotto accusa per il ritardo nella fotoidentificazione negli hotspot richiestici. Però al di là dell'ennesima lite al vertice europeo, ci sono poi i quotidiani che dedicano molto spazio alla vicenda che ha infiammato di polemiche l'inizio dell'anno in Germania, e cioè questa dimostrazione alla stazione di Colonia che c'è stata nella notte di Capodanno, quando decine di migliaia di persone si riversavano in città per assistere dai fuochi d'artificio oppure alle manifestazioni canore, e questa muraglia umana di immigrati, profughi, ubriachi, fuori controllo, che sottoponevano ragazze e signore a palpate eccetera eccetera, ha rappresentato un trauma per la Germania che viene descritto oggi da molti quotidiani italiani. Il Corriere della Sera decide addirittura di aprirci Germania, il giornale Germania, lo shock di Colonia. Tutto questo per dire che anche in Germania siamo lungi dall'aver superato il punto di caduta delle polemiche scatenate a distanza di poche settimane da quando l'apertura iniziale, a cui tutti applaudirono, quella della Merkel che dava un segno umanitario alla svolta, tutti dissero c'è finalmente l'Europa in campo grazie a questa apertura unilaterale della Germania, accogliamo i profughi, possiamo accoglierne anche 1 milione, poi dopo poche settimane saltò l'intero sistema politico di rappresentanza locale, anche tedesco, dicendo cara cancelliera, noi come Länder non ce la facciamo. All'interno del suo partito CDU-CSU molte le dissero cancelliera stai sbagliando tutto, infatti scendi nei sondaggi. Come si vede, il problema è aperto. Diciamo, dalla scorsa estate è evidente che l'Unione Europea ha perso un pezzo fondamentale della propria identità proprio sulla questione dell'immigrazione. Andiamo a vedere random un po' di altri temi in questo giorno della Befana. L'inflazione, dato ufficiale di chiusura del 2015, resta praticamente piatta, più 0,1%. Mi dispiace dover sottolineare che nessun quotidiano italiano, nessuno, non c'è una sola eccezione, approfitti per far capire a tutti voi che con questo dato di una inflazione più 0,1, cioè inesistente, zero, se ci confermiamo quindi con un rischio di deflazione molto forte, salta del tutto o quasi, allo stato attuale, la possibilità che scenda il debito pubblico nel 2016, sulla quale il governo punta molto. Il governo dice: noi abbiamo aumentato il deficit l'anno prossimo, ma i rigoristi non ci rompano i cabasisi, come si dice in siciliano, perché tanto il debito pubblico scende. Bene, siccome la previsione che il debito pubblico scenda malgrado il deficit che sale sta in piedi solo con una componente nominale del PIL, cioè l'inflazione, di almeno più 1%, e io, ultimo della ruota del carro, ma molti altri più autorevoli di me insieme a me dissero al governo 3 mesi fa, quando uscì la legge di stabilità: guardate che questa previsione di inflazione così alta è troppo ottimistica. Naturalmente il governo ci sbertucciò dicendo: zitti gufi, che ti fate contro. Benissimo, intanto il dato di dicembre continua a dire che c'è un'inflazione zero. Senza di questo il debito pubblico italiano l'anno prossimo continuerà a salire, poiché il nostro deficit sale e non scende, come dice il governo. Allora, questa notizia che i giornali italiani buttano lì in un angolo parlando solo la deflazione cattiva eccetera eccetera, fa saltare le previsioni di diminuzione del debito pubblico italiano. Nessuno se ne accorge. No, diciamo che l'influenza, il traino del governo sulle notizie italiane è molto forte. Ecco, poi, per esempio, il Corriere della Sera ci segnala in una pagina intera oggi che c'è una svolta in atto sul confronto contrattuale tra sindacati e grandi aziende. Ci sarebbe questo grande documento unitario CGL, CISL, UIL, e quindi se andate a vedere oggi sul Corriere della Sera, con un titolone, carattere di scatola, pagina 11, un articolo di Enrico Marro, ottimo collega, la svolta dei contratti. Andate a vedere però di che cosa si tratta. La svolta non c'è, perché CGL, CISL e UIL non accettano l'idea che i contratti aziendali siano sostitutivi di quello nazionale, per parlare di il più gli aumenti salariali lì collegati alla produttività, e invece propongono che ci sia il contratto nazionale di lavoro così com'è, a cui si aggiunge quello aziendale e si aggiunge quello territoriale, così sono buoni tutti, come dicono a Roma. Quindi ecco, esempio secondo me di un giornalismo non molto coraggioso, se posso essere sincero. Bisognerebbe dire, insomma, i sindacati unitari continuano a non voler sentire che bisogna contrattare la produttività in un altro modo. Invece un applauso, io do il mio Oscar personale di oggi a Antonio Stella su Corriere della Sera, perché con un articolo che ha un grande merito, quello di ricordare a chi non è tanto addetto ai lavori tanti processi della storia italiana su vicende di crack bancari e di pessima gestione di manager bancari a braccetto con la politica, ha il merito appunto sul Corriere della Sera di ricordare che di solito, tranne pochi finiti magari anche malissimo, magari anche appesi sotto un ponte come Calvi per il Banco Ambrosiano, ma nel 95-97% dei casi, da che esiste la storia unitaria, negli scandali bancari alla fine i banchieri l'hanno sempre o quasi fatta franca. Quindi chi volesse averne una conferma legga oggi il pezzo di Gianantonio Stella. Due altre brevissime segnalazioni e poi occupiamoci di questo rischio di nuovo di Schengen che salta al nostro confine orientale. Innanzitutto segnalo il Fatto Quotidiano, che pone un interrogativo interessante, quasi inquietante. Dicono: c'è un trade-off, uno scambio di interessi per il ruolo esercitato da Renzi all'apertura dell'anno in borsa a Milano per la quotazione di Ferrari, perché in cambio Renzi ha chiesto a Fiat, quindi a Alcan e a Marchionne, di fare parte in qualche modo della cordata per l'ILVA. Il governo è disperato perché con l'ILVA, dopo 3 anni e mezzo di esproprio giudiziario, l'infrazione europea, è saltata la possibilità di espropriare di nuovo altri soldi da Riva perché i giudici svizzeri hanno detto no, adesso è uscito un decreto bis, per così dire, per tentare di privatizzarla, non si capisce se con quanti soldi pubblici di CDP, e disperati in queste condizioni pare che il governo, secondo il Fatto Quotidiano, chieda alla Fiat: ci dovete dare una mano per portare i privati italiani riottosi ad accettare l'idea di occuparsi loro di questo disastro pubblico, visto che la ILVA era in bonus, faceva utili, e noi con l'ILVA invece espropriata dallo Stato ci abbiamo fatto un falò di risorse. La Svimez l'ha calcolato intorno ai 14 miliardi di euro persi di risorse in 2 anni e mezzo. Quindi interessante questa tesi del Fatto: vogliono l'ILVA modello all'Italia con i patrioti di Marchionne. Il titolo è un po' forzato, però secondo me è un'ipotesi tesi non del tutto destituita di fondamento, e vedremo che cosa succede nei prossimi giorni. Invece, segnalo alla stampa sul fronte dei servizi pubblici italiani scassati, una notizia anomala per l'Italia, perché Cremona diventa una delle grandi città italiane, comunque capoluoghi di provincia, nelle quali la municipalizzata dei trasporti viene integralmente ceduta a un'azienda di trasporto non solo privata ma anche straniera, a un'azienda che è britannica, si chiama Arriva, ma in realtà in questa azienda il capitale maggioritario è nelle mani di Deutsche Bank. E secondo me in questo articolo di Luigi Grassia c'è il merito di segnalare un'anomalia italiana, perché ci vorrebbero più cessioni di questo tipo, più gare di questo tipo. E complimenti anche alla stampa, perché tra i quotidiani italiani è quello che dedica più attenzione allo sviluppo di una vicenda che abbiamo citato sempre sul ramo gestire i servizi pubblici con più efficienza, quello che a Roma vede impegnato il commissario Tronca, che voleva andare avanti nell'affidamento di gestione degli asili nido, il servizio di asili nido, a privati per risparmiare, affidamento di gestione e non cedere il servizio ai privati. E però Tronca, il Tronca, come direbbe Milan, deve fare marcia indietro, perché le polemiche sono state tante e tali, i sindacati durissimamente, ma anche tutti i partiti dalla destra alla sinistra, per cui Tronca deve fare una mezza marcia indietro. Il commissario è costretto a dire scenari ipotetici già previsti in passato, insomma resterà tutto pubblico, poiché sui 209 nidi a gestione diretta Roma perde un mucchio, perché basta fare la comparazione dei 7 che sono invece dati a gestione privata e si vede quanti risparmi questi 7 fanno unitariamente paragonati a ciascuna delle 209 unità pubbliche. Però pare che in questo paese questo tipo di criteri sia considerato improprio da adottare. E però bravo in questo caso la stampa, e brava Flavia Amabile a informarcene. Allora, poniamoci la prima questione nata ieri: ma l'Italia anche si appresta a far saltare Schengen? Rimettiamo i controlli alle frontiere orientali, Slovenia e non solo? Allora, questa domanda, per farci capire che cosa è successo, se davvero è necessario metterci anche noi a smontare le regole europee in questo fronte che vede l'ennesimo vertice europeo con scontri in corso, inizio a chiedere questa questione al sindaco Ettore Romali, che è il sindaco di Gorizia. Buongiorno signor sindaco, grazie di essere con noi in questa mattinata della Befana. Buongiorno a lei. È necessario secondo lei? Ma per il momento il fenomeno che si sta verificando non ha delle caratteristiche così imponenti come da qualche parte si sente dire. In realtà nella città di Gorizia arrivano richiedenti asilo, migranti, come li vuol chiamare, non in numero superiore a 3, 4, 5 al giorno, però è un flusso continuo e sono quasi tutti dei migranti di ritorno, cioè persone che erano riuscite a entrare in Austria o in Germania e che oggi ci ripensano e ritengono che forse l'Italia dia maggiori garanzie a loro per ottenere questo titolo che gli dà la sicurezza di restare in Europa. Però questo significa, secondo quello che ci ha appena detto, che il più di questo numero, comunque limitato rispetto a quello che lei dice, non è certo un flusso di fronte al quale secondo me bisogna ripristinare i muri. Sì, però flusso, stiamo parlando di persone già identificate, già ben note, già nel sistema comune di identificazione europeo, sì, no? Questo è il problema. Fin dall'inizio Gorizia, fin dall'inizio del fenomeno, cioè circa un anno fa, è sempre stata interessata da una stranissima migrazione che è rappresentata quasi per il 70-80% da provenienze comunitarie, cioè persone che erano già state identificate, che già avevano avuto l'identificazione in altri paesi europei, in Inghilterra, in Francia, in Belgio, eccetera, e che venivano a cercarsi in Italia, in particolare a Gorizia, dove esiste una commissione per il controllo delle richieste di asilo, a chiedersi forse un titolo, come dicevo prima, che sembra più facile da ottenere da noi che in altri paesi. Quindi però non ha mai assunto il carattere della migrazione di massa, ecco, questo volevo precisare. E né tantomeno, o sbaglio, secondo lei, in comuni diversi da lei del nord-est, mi pare lungo il confine con la Slovenia, ci non siano immagini mai paragonabili a quelle che abbiamo visto ai confini di altri paesi centroeuropei no, o balcanici? Assolutamente no, assolutamente no. Basterebbe che la Commissione funzionasse un pochino meglio e facesse un po' più di giudizi al giorno. E basterebbe che tutti coloro che già sono stati identificati in altri paesi europei venissero rispediti in questi paesi, e il fenomeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non esisterebbe. Tenga presente che a Gorizia oggi sono presenti circa un 300-350 richiedenti asilo, sono tutti uomini, tutti dall'età dai 17 anni, questo è un quindi minori non accompagnati fino alla maggiore età, e poi sono uomini che arrivano ai 40-45 anni. Non c'è una donna, non c'è un bambino, è un fenomeno assolutamente unico, credo, in tutto il panorama. Sono tutti di etnia afghana o pakistana, ma è quindi un fenomeno limitato a queste due etnie. E allora, per concludere, lei come ha reagito quando ho visto ieri i media nazionali indicare questa... Una solida esagerazione. Io ricevo molto spesso richieste dai media nazionali di interventi su questo campo, nei quali cerco di essere il più oggettivo possibile. Infatti. Cioè, il fenomeno esiste, io non voglio minimizzarlo. Gorizia, secondo un progetto regionale che è stato fatto, dovrebbe ospitare 70 al massimo richiedenti asilo, ne ospita 350, quindi è un fenomeno che per una città piccola come Gorizia è già piuttosto preoccupante, però non dobbiamo confonderlo con una migrazione di massa che in realtà non c'è. Ecco, io apprezzo molto la serietà, ecco, del sindaco di Gorizia, perché noi in redazione ieri ci eravamo guardati negli occhi dicendo: che cos'è che non abbiamo visto e capito tale da giustificare i titoli di tutti quanti sul fatto l'Italia sospende Schengen alla frontiera nord-est con la Slovenia? E ci siamo detti: facciamocelo raccontare. Il sindaco di Gorizia, come avete sentito, ci dice: ma guardate, seriamente e sinceramente c'è un flusso costante, 3, 4, 5 persone al giorno di ritorno, quindi già identificate e così via, però non c'è niente di paragonabile a chissà quale disastro da fronteggiare ripristinando i controlli. Allora, grazie intanto al sindaco di Gorizia. Adesso pubblicità, e poi con Paolo Rumiz invece vediamo di capire meglio qual è il suo punto di vista, di chi da anni si pone il problema, insomma, del centro europeo, balcanico e dell'Oriente, di fronte al fatto di un'Europa che invece sì, i problemi ce l'ha a casa sua, perché non ha saputo identificare che cosa diavolo si metteva in moto con gli annunci di questa estate. Eccoci qua, tornati in diretta, 8:36 primi e 40 secondi a Tentino 2 con Oscar Giannino, ancora solo per oggi, domani torna anche Alessandro Milan. Abbiamo con il sindaco di Gorizia sentito la testimonianza di una città che sta storicamente sempre alle prese con un confine in cui l'eredità della Seconda Guerra Mondiale ha assunto ancora per molti anni un'eredità che aveva un significato di confine di guerra fredda, e naturalmente nei nuovi tempi è diventato invece il confine di un mondo che è pressato da un'ondata di profughi, migranti economici in fuga da guerre, morti, regimi falliti, tra l'altro quello che sta succedendo e i cui sviluppi sono in corso tra il mondo dell'Islam sciita e sunnita, blocco di paesi alleati dell'Arabia Saudita contro l'Iran, garantisce all'ISIS una lunga durata, come si direbbe, scomodando la squadra degli annali francesi. E a questo, cioè a una realtà in cui vediamo sui giornali di oggi, per esempio, il premier della Danimarca Rasmussen dire alla Germania della Merkel: vogliamo i controlli alle vostre frontiere perché troppa gente ci state mandando in Danimarca. Ecco, la mia domanda a Paolo Rumiz, che ringrazio di essere con noi in questa mattinata della Befana, è: ma a te che impressione ti ha fatto in questi ultimi mesi vedere ciò che avevi descritto con l'occhio, tra il nostalgico e il curioso, di un scrittore giornalista che sta sul lungo filone di Joseph Roth, la Mitteleuropa, eccetera, eccetera. In pochi mesi andare in pezzi ogni idea invece di capacità di convergenza su come gestirla, questa ondata di migranti. Beh, buondì. Allora, intanto io vedo passare profughi dalla mia parte da quando sono nato. Mm. Sono del 47, quindi negli anni immediatamente successivi ho visto arrivare gli istriani, dopo gli istriani altre popolazioni, poi la crisi dei Balcani, serbi che vanno in una direzione, croati che vanno in un'altra direzione, poi l'accendersi del problema medio orientale. Quindi è come se vedessi sempre un po' lo stesso film. È come, non lo so, è una situazione che può essere descritta soltanto in termini biblici, non in termini, diciamo, di analista storico classico. Sì. Sono cose che puoi capire molto di più leggendo l'Esodo piuttosto che leggendo il testo di un Lutwak o di un Orton Ashe. Ecco, questa è un po' la sensazione che ho, che dovremmo guardare queste cose con un occhio più di lunga durata, cioè l'occhio di uno che guarda il secolo di traverso e non esclusivamente gli ultimi fatti. Noi siamo di fronte a una crisi che era ravvisabile, prevedibile già da anni, che ora ci sorprende, ma in realtà era già in incubazione da tantissimo. E che però mette nell'angolo la capacità di dare risposte organizzate e all'altezza proprio i paesi che rappresentano il cuore efficiente dell'Unione Europea, perché in buona sostanza a saltare è stato questo asse di una Europa a guida germanica con i paesi sull'area più orientale, no? Della influenza economica tedesca allargatasi, che è stato il vero pilastro su cui si è costruita poi l'Europa dell'euro. E sono proprio quelli i paesi che hanno iniziato tra loro a dirsi ufficialmente coi governi: no, noi rimettiamo unilateralmente le barriere ai confini. Vabbè, perché sono quelli che si sono anche assunti il grosso della responsabilità della gestione di questi arrivi. Non è facile, naturalmente, perché abbiamo diciamo gestire le diversità, gestire l'incontro di civiltà è una cosa che richiede una raffinatezza di gestione che i nostri politici sono da un lato pieni di buonismo, dall'altro lato così un po' apprendisti stregoni, non sono in grado di mostrare. In realtà, diciamo, i vecchi imperi, io sono un nostalgico dei vecchi imperi, avevano una capacità di gestione del pluralismo etnico e religioso al loro interno che le nazioni che sono uscite vincitrici della prima e della seconda guerra mondiale, secondo me, non sono in grado di mostrare. Eppure in un mondo globalizzato, no, in cui dovremmo essere vaccinati alle diversità, non c'è mai tanta ostilità al diverso come in questo periodo. Perché poi, diciamoci la verità, anche la sinistra ha iniziato a diventare, si sente anche nelle parole del Presidente del Consiglio Renzi, un accento di nazionalismo, mentre insomma uno dei caratteri classici delle sinistre che erano uscite dalle tragedie del Novecento era quello di dover per forza puntare su una capacità di comprensione e solidarietà internazionale. Oggi si torna da destra a sinistra, le campagne elettorali sono fatte in nome, noi difendiamo l'autarchia, i tedeschi ci vogliono male, ci mandano gli immigrati e così via. Non è un po' inquietante? Sì, beh, ma non c'è dubbio, cioè, la sinistra in particolare non riesce a decidere che atteggiamento prendere. E io vedo che c'è un tentativo di inseguire la pancia del paese nel modo peggiore, no? Proprio perché finora non si è dato ascolto a inquietudini che sono legittime. Io ho una sensazione molto forte, cioè che il razzismo non nasce così, nasce dalla mancanza di ascolto di una xenofobia e razzismo non sono la stessa cosa. Certo. Una xenofobia è una paura, un timore di vedere cambiati i connotati del proprio paese per l'arrivo di un numero eccessivo di persone di una cultura diversa, mentre il razzismo è qualcosa di aggressivo. Aggressivo, ecco, certo. La xenofobia diventa razzismo nel momento in cui la xenofobia non viene ascoltata e non le viene data una risposta. I nostri politici non danno la risposta a delle legittime paure delle popolazioni, per cui alla fine si ritrovano a inseguire la destra. È diventato, siamo sempre lì. È diventato, secondo me, uno dei dei caratteri attraverso cui leggere le campagne elettorali un po' in tutta Europa, perché risultati come si è detto all'inizio dell'anno scorso l'Ungheria, poi le elezioni in Polonia, poi alcune elezioni locali in Austria, lo stesso dato spagnolo che è tutto un dato giocato su indipendenza catalana, identità nazionale. Io credo che anche alle prossime elezioni politiche italiane sarà una bella gara a chi vuole prendere la bandierina della difesa dell'Italia. Magari mi sbaglio, però io credo che questa crisi di lungo periodo che ci scopre nudi nel sapere convergere in maniera diplomatica ed economica, perché è anche una questione soprattutto di risorse comuni da mettere per gestire le ondate bibliche, come la chiama giustamente secondo me Paolo Rumiz, ecco, questa roba qua ci rivela come gente che non ha preso le lezioni della tragedia del Novecento. Io penso, domanda che faccio a Rumiz, c'è anche però una sorpresa negativa dell'Italia. L'Italia si sta rivelando un po' piccoletta in questa vicenda qua, o invece tu dici no, noi abbiamo delle ragioni perché per anni siamo stati lasciati soli nel Mediterraneo e quindi capisco che poi la politica italiana dica alla Nord Europa. Secondo me l'Italia, in particolare il Sud Italia, hanno dato una grandissima prova di sé, sì. Al di là di quello che può essere un giudizio generale sulle nostre storiche inefficienze, ma anche gli altri paesi, per esempio non lo so, la Slovenia o l'Ungheria, di cui si è parlato abbastanza male perché hanno ripristinato i reticolati eccetera eccetera, in realtà al loro interno e a livello così di società civile hanno risposto molto bene, cioè ci sono migliaia e migliaia di famiglie che sono andate a dare una mano a questa gente. Stiamo attenti a visioni stereotipate, sì. No? Orban cattivo, esatto. Populisti di qua eccetera eccetera, anche qui dobbiamo saper distinguere e saper ascoltare, cioè non possiamo dire ecco questi escono dall'Europa perché ragionano così, no, dobbiamo ascoltare, cioè siamo sempre di nuovo a questa difficoltà di ascolto di quelli che pretendono di parlare politicamente corretto nei confronti di timori che, ripeto, sono legittimi da parte delle popolazioni locali. Popolazioni che poi, ripeto, alla fin fine, e questo i giornalisti non dicono, si danno da fare per accogliere. Rispondono meglio di parliamo come... anche di questa accoglienza. Bravo, sì. No, hai ragione, perché poi le popolazioni rispondono dal basso meglio di quanto invece chi politicamente vuole cavalcare poi la faccenda tende sui giornali a far rappresentare. Quindi esatto. Attento al bisogna essere attenti e autocritici al cortocircuito di cui noi nei media rischiamo di essere parte attiva. Secondo me quei titoli di ieri, Italia sospende Schengen al confine con la Slovenia, un po' facevano parte di questo. No, ma non ha senso, ecco. Perché il grosso del flusso passa completamente fuori da noi. Esatto. Io li ho visti passare in Slovenia, quello è una visione veramente impressionante, no? Migliaia e migliaia di persone incolonnate con i poliziotti a cavallo a destra e a sinistra, cioè qualcosa che ti ricorda, sì. Ti fa venire i brividi perché ti ricorda Auschwitz, ma Auschwitz non è, in realtà è un tentativo di razionalizzare qualcosa che altrimenti, se non viene razionalizzata, provoca cose come quelle che succedono a Colonia. Esattamente. No. Allora, grazie a Paolo Rumiz per questa sua, tra virgolette, saggezza nel sapere guardare al di là dei confini, nella storia alle nostre spalle, e attenzione a noi che facciamo questo mestiere anche a non dare a chi ci ascolta, a chi ci legge, delle idee troppo approssimative, sbagliate, tutte sulle tinte forti. Però ci chiama Loredana da Trieste e sono curioso di sapere se Loredana da Trieste si ritrova nelle parole molto rassicuranti che Ettore Romolo, il sindaco di Gorizia, ci ha dato pochi minuti fa. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Allora guardi, io mi riconosco nelle parole di Rumiz, anche perché essendo più o meno coetanei abbiamo un vissuto simile alle spalle. Non mi riconosco assolutamente nelle parole del sindaco, che ha detto delle grandi sciocchezze, perché a Gorizia erano accampati anche sulle sponde del fiume o in pieno centro di Gorizia. Io chiamo da Trieste, comunque queste cose le ho viste tramite le TV locali. Mi limito a dire che a Trieste stiamo vivendo una situazione drammatica. Io non esco più, non vado più in teatro, non vado più. Cioè lei ha avverte un problema di sicurezza proprio personale, molto forte. Personale molto forte, ma non lo avverto solo io. Quasi ogni sera per le nostre emittenti locali ci sono delle trasmissioni dove vengono portate delle situazioni drammatiche, apolitiche, nelle quali partecipano tutti i rappresentanti politici, quindi non è una cosa di parte, ma una cosa che viene sentita, diciamo, da tutte le persone che anche vi partecipano. Questi ragazzi, tutti giovani, tutti dotati di telefonini che io non mi potrei mai permettere, non fanno niente tutto il giorno, sono sparsi per tutti i palazzetti, sono stati messi in affitto in case che la gente ha impiegato una vita per comprarsi un appartamento e non ci può più vivere. Sugli autobus le donne vengono aggredite, come anche varie inchieste locali, non dico sciocchezze, dico cose che sono andate. Quindi lei dice c'è un problema e come? Insomma, c'è un problema enorme. Il ministro Alfano ha detto che avrebbe mandato 35 soldati a presidiare questi confini, si immagini questi confini presidiati da 35 soldati. È l'ultima barzelletta sconcia sentita. I nostri delle emittenti qui, diciamo, locali sono andati a cercare questi 35 soldati e non li hanno, non ne hanno visto neanche uno. Allora, grazie a Loredana per questa sua opinione, questa sua testimonianza. Molto diversa, come capite dal quadro che ci ha dato il sindaco di Gorizia e anche dall'invito che è venuto da Paolo Rumiz, al quale io personalmente aderisco perché non mi ritrovo in troppi eccessi nella rappresentazione, certo che poi bisogna sentire però i cittadini dal basso per capire come vivono questa emergenza, che per loro è un'emergenza, e la signora Loredana ci dice c'è un'emergenza e come qua nel nord-est. Allora, cambiamo pagina un secondo, perché uno degli argomenti su cui si è arroventata la politica immediatamente alla ripresa dell'anno è proprio un tema che ha a che vedere con la famiglia, i rapporti di genere, i diritti. Sto parlando delle unioni civili, sui giornali c'è un'alluvione di articoli sul fatto che tra 3 settimane si vota al Senato e c'è tutta una questione innanzitutto politica, perché Alfano deve fare il cattolico che non voterà le unioni civili, perché consentire l'adozione ai membri delle unioni civili che hanno già prole precedente per loro significa spalancare la porta poi a perché un giudice possa riconoscere l'adozione anche alle coppie gay, eccetera eccetera. Poi si è aperto un altro filone che riguarda, ma diamo la pensione di reversibilità anche a chi ha contratto unione civile. Il testo dice la diamo solo se sono omosessuali, non la diamo se sono eterosessuali. Personalmente penso che finirà nella pensione di reversibilità a tutti, e bisognerà rivederla la pensione di reversibilità invece, perché spendiamo già 40 miliardi per 4,8 milioni di assegni, ne scrivo oggi sul Messaggero, ma per dire che su questa questione dei rapporti di genere e delle istituzioni che si costruiscono in queste porte in questa società in base ai rapporti di genere, l'Italia finisce sempre per essere una roba in cui sembra che i soldi siano il problema. Io sono convinto che ci sia una questione di genere invece ancora aperta, molto forte, e per il fatto che oggi è il giorno della Befana, cari maschietti in ascolto, e cioè di una figura che voi utilizzate spesso per fare qualche allusione poco cortese, dalle ragazze quando si va a scuola fino alle signore e compagne man mano che la vita va avanti, mi sono scelto una dialogante, una scrittrice, autrice di satira, alla quale porre un problema. Ma non è che in questo giorno le donne dovrebbero dare una mano agli uomini, sia ai loro uomini che ai loro fratelli, padri o figli, per mettersi una mano sulla coscienza e dire cari maschi, il giorno della Befana approfittatene per un giorno di autoconsapevolezza, ammettetelo che siete colpevoli, vi siete riempiti la bocca dagli anni 70 del fatto che la rivoluzione dei diritti femminili si era compiuta, ma in realtà siete o incapaci di vivere e costruire davvero la parità, si vede come si lavora a casa e come guadagnate nella vostra azienda, oppure fate semplicemente un servizio con le labbra in cui dite sì parità, ma di fatto siete dei nemici della parità. Allora, Lia Celi, che è collegata con noi in questo giorno della Befana, ha accettato di parlare ironicamente in questi termini dei maschi e delle femmine il giorno della Befana. Buona Befana, cara Lia. Buongiorno Oscar, buongiorno agli ascoltatori e buona Befana, dico insomma, però adesso ci sono i saldi, la Befana con le scarpe tutte rotte, un paio di scarpe potrebbe comprarsele anche senza... Ma ci sei andata anche tu ai saldi ieri, di la verità? Ah, ieri sì, ho fatto proprio come l'italiana media che ha speso i suoi... No, perché a Milano c'era pochissima gente, ma i tassisti e chi sta a fare il servizio pubblico di trasporto fuori la città diceva che in realtà erano tutti ai centri commerciali poco fuori Milano perché c'erano appunto i saldi, quindi buoni saldi a tutti. Ma intanto in questi saldi tu hai avuto anche qualche regaletto da qualche maschio paritario o i tuoi amici maschi non sono paritari? No, guarda, ho degli amici maschi abbastanza galanti da non farmi regalo il giorno della Befana, insomma, no? Tutti gli altri 364 vanno bene, ma durante la Befana dovrei farglieli io, ecco, dovrei io andare a fare il giro dei calzini dei miei amici maschi sperando che siano puliti, infilandoci dentro delle cosucce, insomma. Ma diciamo la verità, tu hai vissuto una parte della tua vita vedendola realizzata la parità di genere, o no? Guarda, sono una donna fortunata perché, ma, certo, sono, avendo una famiglia numerosa, le famiglie numerose, sai, si dice, no, c'è egoismo, non si fanno più figli perché vogliamo tutto il lusso, vogliamo dargli troppo, non si fanno più figli anche perché la famiglia numerosa, io ne ho quattro, deve essere un progetto comune, cioè se le responsabilità non sono divise al 50%, non si fa più di un figlio, se è sempre la mamma, la donna che deve accollarsi tutto l'accudimento, i trasporti. Quindi per averne quattro vuol dire che funziona la collaborazione. Infatti se senti in giro tra altri genitori di famiglie numerose, vedi che sono persone che viene automatico, viene naturale dividersi le responsabilità. Quando c'è un figlio o due, in genere la madre ad accollarsi tutti i compiti e da questo punto di vista tu dici devi aiutare gli uomini a fare autoconsapevolezza. A me non piace molto perché penso che tanto l'autoconsapevolezza non può essere storta, no, tanto vale, però può essere indotta, può essere coltivata. No, bisogna dare in un certo senso l'esempio, cioè come dicono gli americani, non diventi uno zerbino se prima non ti stendi, insomma, perciò io ricorderei le nostre mamme, le nostre zie degli anni 70, queste tanto vituperate femministe, mm-hmm. no? Che poi sono state demonizzate, senza le quali noi in Italia, poi tra l'altro femministe molto variegate, perché c'erano a sinistra, c'erano nella DC donne che difendevano i diritti delle donne a avere pari stipendi o servizi, insomma, era una cosa molto più sfumata e variegata di quello che ci immaginiamo oggi, no? Gonnelloni, zoccoloni, donne urlanti. Sì, è rimasta l'immagine oleografica, ecco, tutto qui. Infatti, quella che spaventa le ragazze, le donne di oggi, gli fa dire no, io femminista per carità, io voglio continuare a farmi la ceretta, voglio continuare ad andare dal parrucchiere, perché la femminista è la Befana, ecco, proprio, citiamo proprio la donna del giorno, la femminista identificata con questa con gli aspetti deteriori di una femminilità aggressiva e urlante. Però le nostre nonne e mamme, forse perché avevano fatto la guerra, non avevano paura di alzare la voce, anche di rendersi sgradevoli, perché non ottieni nulla se a un certo punto non punti i piedi e non smetti di chiedere per favore. È vero, come dice Ute Erhardt, che le brave ragazze vanno in paradiso e le cattive vanno dappertutto, dove cattiva ragazza non significa essere la bad girl che schiaccia gli uomini sotto il tacco a spillo, ma semplicemente una donna che come un essere umano libero e rispettoso di sé sa anche chiedere con autoaffermatività. Eppure un po' è successo, perché secondo me un po' date Lia, però un po' è successo, cioè l'eccesso di come dire, autoaffermazione urlante come diritti vi ha restituito a un'immagine pubblica, guarda nella comunicazione, molto più rassicurante per i maschi, siete tornati ad avere le tette più accentuate, per una parte d'Italia non avevate mai persa quella berlusconiana, le tette pronunciate, però voglio dire, siete tornati sui tacchi, siete tornati a dover mettervi la calzetta, cioè è una maniera per dire state a posto, perché avete abbastanza rotto le scatole, avete ottenuto quello che era giusto che ottenesse, adesso non rompete, mi sbaglio io? Guarda, è che i diritti sono come i muscoli, se smetti di esercitarli si atrofizzano, insomma, bisogna sempre rimanere allerta. Poi veramente c'è stato negli anni famosi del riflusso, è stata forse demonizzata più che in altri paesi, devo dire, la figura della femminista, no? In Italia, perché poi è venuto questa terribile paura di non piacere più, ecco, no? Ecco. Fra l'altro, sottovalutando i maschi, perché noi donne diamo quasi per scontato che gli uomini vogliano la serva, come se non potessero amare una donna che ha rispetto di se stessa. No, quindi la serva serve a casa, l'amante invece deve essere diversa. Infatti, ma in realtà tutti pensano che le femministe degli anni 70 fossero donne senza una vita privata, che erano donne che altro che essere, avevano figli, esatto. Avevano un sacco di fidanzati. Ma insomma, ai tuoi figli maschi, quindi dirai imparate da soli. Beccatevi, soprattutto la speranza sia che beccate delle amiche che vi urlino un po' in faccia. Oscar, guarda, poi non crederci, io non ho bisogno di dire niente a mio figlio maschio, perché avendo tre sorelle maggiori femmine, che sono veramente un piccolo comitato femminista in casa, lo stanno tirando su allora capisco. Io invece sono cresciuto in un altro modo, quindi col mio figlio maschio avverto che c'è un problema di questo tipo. Magari mi sbaglio, ma grazie agli Acelli per aver consentito a chi è in ascolto di rifletterci. Però su questo giornale della Befana non fate solo le battute, fate davvero, cari maschietti, un po' di autocoscienza, rifletteteci se davvero siete in grado di realizzare qualche spazio in più e migliore per la vostra compagna, per vostra madre, per la vostra figlia. E comunque buona Befata, continuate su Radio 24, guardate che alle 4:30 c'è la versione di Oscar anche oggi, e domani mattina torna Alessandro Milan qui ad Attenti a noi due alle 8:15.